Il secondo racconto narra le vicende di Peppe, appena più che piccolo, garzone di pecoraio. La vita stenta, persa sui monti delle Madonie, col freddo e la neve, la fame e la sete. Ed è proprio dalla sete che sgorga questo racconto. Peppe viene mandato dal suo compagno, più grande di lui e dal quale Peppe è stato posto, a prendere l'acqua in una fontana, non molto distante da loro. Ma è quasi buio e con quel tempaccio. Infatti Peppe è colto da una bufera, si smarrisce, ripara in un pagliaio. È mezzo assiderato, fa una vampa e per alimentarla dà fondo a tutta la legna che trova. Ma ha sempre freddo. Pensa allora di far fuori i giacigli e la capanna. Li scompone, pezzo dopo pezzo, essi diverranno legna da ardere. Quella sera Peppe non mangiò e il suo compagno non beve. Peppe poté finalmente dirsi salvo il giorno dopo, quando vide un mulo risalire dalle petralie, dirigersi verso Castelbuono. Sulle tracce di quel mulo, i muli sono infallibili nell'orientamento, molto più dei conducenti, azionando più il sedere che le gambe, riuscì assai fortunosamente a guadagnare il paese e quindi la casa. No, da cari di Dio, ma dove è pure niente? E per compagna vi otto se vi è sopratile, non è perché posso fare. E ne andiamo in montagna, e maroni. Una sera, stava scurando, su quest'anno sono incredibile e piccolo, ma mi andava all'acqua. E mi sono giuro di piccolo, mi ha detto, ma perché ti chiamare? Mi ha detto, ma come ho voluto? Mi ha detto, ma perché? Ho detto, ho detto, ho detto, ora mi ci manda all'acqua, questo. Ora l'acqua almeno è lontana, c'è il chiuso di 150 metri per arrivare all'acqua. E mi sono navigare, a se montagna e montagna. E erano delle nuove pagliarette, e poi ti potevo arrivare nell'acqua, mi scurava e si toccava che era pannina, la testa uva, che stava buono. Che non aveva la montagna e ferro. E mi si cercava, poi avevo l'angidungo. E mi disse, diavolo, sei futuro l'angidungo, mi prendo a pagliare, e c'era una bella tagliata. No, pagliare. E sì, stasera muori per te. Papà non arriva a pagliare, ma tu moro di sete. E mi prendo a pagliare, alla banca di ghiaccio, che c'erano belle ghiaccio. E mi si appoggiare, ho detto che papà non moriva, papà lui ci campava. E io ho detto culo, moriva di sete. Ma io mi guardavo, non morivo. E mi metto a navigare tutta la notte. Per io prima altro non aggiornavo, tanto non aveva ancora scuro. E cominciava la ghiaccio. Prima della teatro non aggiornava, dico, ma pure avrei qua comune. Ma lo stavo da Italy, ma. Prima della teatro, c'erano tre teatri, ne avevo assoluto due. E pure la teatro, e ancora non aggiornava. E pure che stava finendo l'ultimo, come c'era il germone solo, c'era da stare. Il germone solo, io dovevo l'amante solo. Perché erano, siccome era l'uomo solo, non ci poteva mettere, dico, ma tutti i cementi ci mettono tutti. E se mentre aggiornava metto il lucidietto, appena appena. Metto il lucidietto, dico, buttano da uno, dico, te la aggiornava, dico. Ma buttava la porta, non ti poteva aprire, che c'era la neve da lì, la neve si fece ferma. Se porco le giure, dico, dopo ieri, sai come è fatto? E pensava, pensava, dico, sti parruna, come è? Se come questo, il lucidietto, la fortuna, la porta era corretta. In testa c'era un bottone, che la neve si fece aperta, un metro. Domenica c'era da auto. E mi sa qui, c'è poi un legno, ha detto, di questo sito mi sa fare un bottone. Giuda, zagate, dove vuole, la porta era porrita di pavo. E si va rompendo, si va pezziando, e ne c'è come non libro. Non c'è capito quel bottone grande. Da lei, disse, tutto il mondo bianco, la neve, ma non è ieri. Tu vuoi la carta di debba, una fiera, e sopagliare. C'era via due bosco che partiva per scendere a casa in prima. I papi erano tutti caricati da neve, gli alberi, non partiva via. Il sole mi andava a dire, una schiena, che c'era una schiena, per la schiena parlo che hanno perso, c'era una casuzza, la porta l'aveva già montata, l'aveva messa bene, questa scurezza di questa porta. Arriva una schiena, e vedo la scurezza della porta, dico, dai, che hanno perso. E mi si accende, aveva scappato quello qua, siccome dopo c'era la lista che scendeva, mi scantava, non poteva scendere la detta, e mi ha messo col culo. Col culo, col culo, ho detto che Siamo un anno intero, con terra, effettivamente c'è stato un chilometro di via, per la ragazza, fiera della fiereia, tutta pennina. E capito, mi ha fatto fare buono, ma mi ha fatto sano, la restava mi ha fatto con il cuore, mi scappo per la patata. E te lì che due cuore piano fiori, ciao via che parte con questo. Prendete via. Ah, via un po' di parte, ma quella è tecchina. Ma cosa da parte, dicono, ma potete la via, ma tirava la scuola di uno. Ma niente erano i tre passati, che mi sbagliavo il tempo, disse, ma che come posso scappare? Ma come fa? Ora in mezz'aria, sono in vari piccati onde, a volte gli appennini, e che morena, può essere che... Dico, all'anima, che legge niente, dico, vabbè io ho qualcosa. E mi ne fu avuto onde, ho lato avuto onde. Si ne fa da sapone gli appennini, per due si chiamava da sapone, e mi ne darava da sapone, giustizia c'era uno che c'era. Da qua c'era io. E bitto una maniera di muro. Ma mi ne ha preso, come ci vai a maniare il muro? Mi ne ha preso a piedi, a piedi, e ne ci vogliono sempre qua. Dico, ora dico che ti posso arrivare. Arrivo a chiamare sempre qua. E la maniata che mi andava a girare lì, ci arrivava per te da lì, paro il paese. Era tutto comunato da neve, la neve arrivava al mare stavolta. Che mai non ho visto neve così, stavolta solo, ora non te ne ha fatto più. Arrivo al paese. A neve da lì, tutto assammarato, tutto, mamma, vogliamo. Mi sfugliavo, ma tu piccerete, dice, faccio, già così ci vuole dare una affare. Dico, ma non piccerete con scura all'acqua. Pigliavo io un oculato, dice, mi fa così che sono, dice, se ne parla, dice, come ora, dice, per uno, qualunque ci chiamiamo, la ripia con una neve, qualunque ci vuole, dice, tu. Solo se dai, faccio, prima che ci cantava, dice, non tirava legnato. Ma poi io non ci avevo più, e dicevo, curato, dicevo, bravo, dicevo, niente, dicevo, no, che può, dicevo, come dice, arrivo, che portavo, ma che tagliare, sei via, quella marina, poi dice, se ne viene qui la tarattò dentro. No, non ti dico, quando mi arrivano poi sei via, quella, pagliare, due uomini, con pala e sapone, e gli rallevare i piegoli in capane, che non potevano camminare. E mi sono arrivato, ah, dire, posso arrivare il cappuccino tanto, c'è lì, mandano, e imparare dopo con niente. La mattina, il giorno, poi ci aiutarci, e pigliamo un certo pace mare, poi abbiamo andato a mille, arrivavamo a vedere il tuzzetto, e non andiamo a vedere il tuzzetto. Eravamo tutti, lo stavo con la mia compagna, e mi ha detto di noi, che grava, durava culo, che dice, la mattina alle 4 si corriavano al mare, andava a Tarazza, a Nova Maria, da in Diamanda, facciamo il ma quando era mangio, mi mangiavo con te, e già, se parlo non c'era niente, davo un panaggio era sicuro. Ma non può tu così, questa era la luce, di due tempi.